col collettivo di giurisprudenza, sin dall'anno scorso abbiamo iniziato a occuparci del tema mafia in una regione in cui, e in una città soprattutto, in cui ci sono tantissimi ragazzi e ragazze che vengono a studiare dalle città del sud e che per l'appunto vivono costantemente, quotidianamente bombardati da informazioni sul fenomeno mafioso o da storie anche personali a volte, e ci troviamo in una città in cui la mafia c'è, forse anche più radicata oggi, quello che è al sud più radicata al nord, da un punto di vista economico sicuramente, però paradossalmente si ha veramente poca accortezza. E noi crediamo fortemente che le università debbano essere degli spazi in cui si fa progresso anche sull'analisi, sulla trattazione di queste tematiche. E quindi già l'anno scorso abbiamo fatto un seminario sulla trattativa Stato-mafia, sempre all'interno dell'aula della nostra facoltà. Quest'anno tratteremo un tema un pochino più, come dire, futuristico, che magari non è contingente a particolari eventi, ma che per noi è fondamentale, ed è il tema della mafia analizzata sotto il filtro, sotto l'ottica di un contesto europeo. I dati dal punto di vista economico ci dicono ormai che la mafia è una vera e propria multinazionale, che se fosse quotata in borsa potrebbe benissimo essere la prima multinazionale del mondo. Un articolo di qualche tempo fa, il Sole 24 Ore, lo descrive bene questo fatto, e quindi è impensabile che un singolo Stato, come un tempo si pensava che singoli soggetti, singole persone potessero sconfiggere la mafia, oggi noi diciamo che è impossibile che un singolo Stato possa sconfiggere una potenza economica prima che ancora un'organizzazione criminale, è un'organizzazione anche sociale in molti territori. Quindi il nostro obiettivo è proprio, attraverso tre incontri, parlare e far parlare di una lotta alla mafia che sia una lotta alla mafia in contesto europeo. Ovviamente farlo nell'aula di giurisprudenza significa entrare anche nei dettagli di quella che può essere, non dico una normativa europea antimafia, ma quantomeno una cooperazione tra stati che oggi è assente, e avremo diversi ospiti che, sia per esperienze personali che professionali, si occupano di questo. Il primo incontro sarà mercoledì 20, quindi fra poco, alle ore 11 in via Belmeloro 12, che oggi è via Andreatta 8 da qualche mese, nella palazzina A di giurisprudenza, in aula A, e ci saranno Giuseppe Antoci, che è l'ex presidente del Parco dei Nebrodi in Sicilia, che ha creato una normativa poi recepita dal Codice Nazionale sulla concessione dei beni agricoli, dei terreni agricoli ai mafiosi, diciamo ai contadini, e quindi evitando che finissero in mano ai mafiosi. Ciò ha portato a un recupero di fondi europei che venivano dati all'agricoltura, che venivano intascati dalla mafia in grandi quantità. Poi ci sarà Maurizio De Lucia, che invece è il procuratore distrettuale antimafia, che è peraltro magistrato che si occupa da decenni di mafia, che oggi è la procura distrettuale antimafia di Messina, e che tra tante inchieste che ha fatto, diciamo, la più famosa, la più celebre, è quella a Totò Cuffaro. Ha fatto parte del pool che ha indagato e poi condannato Totò Cuffaro, ex presidente della Sicilia. E infine ci sarà come ospite di casa la professoressa Pellegrini, che è la docente che da tempo si occupa del corso Mafia Antimafia a Bologna. Questo è il primo incontro, e per gli altri due ovviamente vi potete aggiornare tramite i nostri contatti di Facebook. Parlare di mafia è certamente un tema scottante, anche oggigiorno, insomma, dove la mafia è tutt'altro che scomparsa. E Sì. quindi volevo proprio chiederti perché avete ritenuto importante organizzare un seminario su questo argomento. Allora, ti dico che la maggior parte di noi, come accennavo prima, viene anche da regioni del sud, dove è anche, si è anche, ci sono anche tanti spazi in cui si parla di mafia, tanti momenti anche a scuola in cui si parla di mafia. Quindi per noi il tema mafia è fondamentale, secondo me, soprattutto personalmente. Poi facciamo parte di un'organizzazione che da anni collabora con Libera, e Libera anche, ci tengo a sottolineare che Libera Bologna è il presidio universitario di Libera, che sono peraltro degli studenti come noi, hanno aderito a questo evento. Ma per noi il tema mafia è fondamentale perché intanto non è un problema del sud che può essere risolto in alcuni, addirittura ai tempi del governo Berlusconi, incitavano a mandare l'esercito. Magari fosse così semplice, direi subito sì. Non è così semplice. Il fenomeno mafioso è un fenomeno ormai quasi, non quasi, anzi istituzionale, che da decenni è diventato una potenza economica a livelli mondiali. Penso semplicemente che dal narcotraffico guadagni 17 miliardi l'anno, il reddito di cittadinanza ne è costato 15. Ciò significa che senza solo il narcotraffico noi avremmo un reddito di cittadinanza in più nel nostro paese. Quindi ciò significa anche che è quasi un dovere dovere da parte nostra, che siamo studenti e che fanno anche attivismo, fanno associazionismo, indirizzare verso l'analisi di questo fenomeno anche in una regione dove, ti dico, c'è tanta sensibilità, dove ad esempio Libera è un'associazione molto forte in questo territorio. Ci tengo anche a sottolineare questo: il primo incontro ci saranno 5 classi, 3 del Minghetti e 2 del Paginotti, che sono stato al Paginotti oggi, sono ragazzi strainteressati, dei ragazzi che ti fanno domande pertinenti e che capiscono qual è il focus della questione. Io lancio questa provocazione: se davvero i programmi nelle scuole insegnassero, facessero, toccassero questi temi come nelle università, il problema si sconfiggerebbe anche senza l'esercito, anche senza muovere un poliziotto. Detto questo, è sicuramente un tema che noi abbiamo trattato, continuiamo a trattare e continueremo a trattare anche grazie a dei rapporti che negli anni si sono venuti a creare. Ho citato Libera, cito anche un'altra associazione per noi fondamentale nella nostra formazione, che è Mafia Sotto Casa, che è un'associazione che più di tante altre fa cose concrete, come i dossier sulla presenza della mafia al nord, come le campagne contro il gioco d'azzardo. Anche avere a che fare con queste persone ti posso dire che è un motore per toccare questi temi.